siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Entrando, le mie parlamentari hanno intonato sottovoce un piccolo coretto, meno male che Silvio c'è. Io ho suggerito nell'occasione di cambiarlo in meno male che Giorgio c'è, e dobbiamo proprio dirlo convinti, meno male che Giorgio c'è. Il grande Giorgio napoletano è veramente un grande italiano. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. E nel PD, giocando agli indiani, hanno tirato le frecce a Bersani. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. C'è troppa gente che non ha capito e pensa solo al suo partito. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. La Bindi sa sempre quello che dice. D'Alema col baffo la benedice. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. Tutti insieme, David! No. Il grande Giorgio napoletano è veramente un grande italiano. Presidente, siamo con te. Meno male, meno male che Giorgio c'è. Inutile seduta di autocoscienza del Partito Democratico che si reca da Napolitano sostanzialmente dicendo: fai come te pare. Hanno tirato le frecce a Bersani. Perché vogliamo ricordare quello che Napolitano ha detto ieri, eh? La frase clou, ricordiamocela. O fate come dico io, oppure me ne vado a casa. Ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche, ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale. Ma ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Presidente, siamo Andrea Vantini, l'autore dell'inno Meno male che Silvio c'è, ha composto per la zanzara Meno male che Giorgio c'è, il nuovo inno del PDL. Alla fine della direzione del Partito Democratico, pochi istanti fa, caro Parezza, a un certo punto c'è stato un momento una seduta psicanalitica, praticamente incredibile, perché in realtà non c'era da decidere nulla, dovevano fare dei nomi e non li hanno fatti, almeno allo scoperto, e hanno detto decide tutto Napolitano. Poi qualcuno ha detto no, bisogna mettere dei paletti, bisogna non dire che è un governo col PDL. A un certo punto la Bindi ha detto anche beh, bisogna fare un governo di scopo senza i nostri ministri, cioè un governo col PDL ma senza il PD, cose incredibili. Però tutto si è concluso con una cosa fondamentale. Senti, la Bindi che dice: Marini, Marini vuole aggiungere qualcosa al documento. Franco, Franco, il documento che avete ricevuto. Franco, prego. Franco suggerisce di aggiungere all'emergenza economica e sociale il riferimento in particolare alla parola del lavoro. Lo mettiamo, direi. Mi sembra che senza il riferimento alla parola lavoro nel documento della direzione del PD, beh, sarebbe stato gravissimo, Strano, abbiamo fatto anche un riferimento ai precari di questo paese, al popolo delle partite IVA, a tutti coloro, a tutte le compagne, a tutti i compagni che in questo momento soffrono e aspettano risposte dal paese. Anche questa frase qui ci poteva stare, forse, no? Uno dei momenti più belli, oltre ovviamente al discorso di Bersani, che ogni tanto ha fatto delle metafore strane. Ma Bersani è stato bravo stavolta, eh? Vabbè, lascia perdere. A un certo punto è intervenuto uno che si chiama Vittoria, di cognome però, Vittoria, che così si è rivolto al segretario, sentite. Purtroppo questo, Pierluì, è anche il campo che noi abbiamo costruito da qualche mese. Pierluì, oh, ma chi sei, Vittoria? Pierluì. Che Giorgio c'è. La Finocchiaro poi ha detto, a proposito dell'aggressione tra virgolette a Franceschini: noi dirigenti non siamo tutelati abbastanza. Ma che vuol dire non siamo tutelati? Ma lei ha la scorta, ma lei ce l'ha la scorta, porta pure le padelle all'IKEA, la scorta della Finocchiaro, cioè, non, che vuol dire? Presidente, siamo. Penso anche, e qui mi attirerò probabilmente la prossima aggressione alla quale sarò sottoposta, a proposito vorrei dire che forse i gruppi dirigenti vanno anche minimamente tutelati, Io continuo ad essere aggredita come Dario, come Fassino, come Rossi poco fa, come tanti altri. A parte che non si riscontrano aggressioni, almeno in pubblico, aggressioni alla Finocchiaro. Non mi pare che venga aggredita. L'altro giorno ha litigato con i giornalisti perché non la facevano passare alla riunione per decidere il Presidente della Repubblica. Ma non mi risulta ci sia un'aggressione, magari mi sbaglio. E poi comunque che significa? Alla scorta, non è che, cioè, se Franceschini non ce l'ha... Vuol dire che non ce l'ha. Poi invoca scorte per tutti. Siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. La Bindi: ci vuole un governo di bassa catatura politica. Dice catatura, poi si corregge, si inceppa un po'. Bassa. Ha inventato una nuova formula: il governo con bassa caratura politica. Poi uno dice che la gente non capisce, no? Il governo di bassa caratura politica. Un grande italiano. Noi ci prepariamo a fare e a sostenere un governo insieme a questa forza politica. Quella sì che ha dimostrato molte volte di essere inaffidabile, non noi. La mia domanda è: c'è uno spazio per dire che vogliamo un governo di scopo del presidente, con grande responsabilità politica da parte di chi lo sostiene, ma con bassa caricatura politica delle figure che ne fanno parte? Ma cos'era? Caricatura, catatura, alla fine caratura politica, vabbè. Caratura. Ma caratura, quindi vuol dire che non ci devono essere uomini di... Non ho capito. Sì, secondo lei ci deve essere un governo... Nessun uomo di spicco del PD. Esatto, sì, in sostanza sì. Cioè, quindi uomini di riferimento, di area. C'è troppa gente che non ha capito e pensa solo al suo partito. Vabbè. Vendola dice no al governo col blocco berlusconiano. Io lo capisco, per carità. È comprensibile, starà all'opposizione. Noi voteremo contro la fiducia a qualunque governo che abbia il blocco berlusconiano al proprio interno. Per uscire dalla crisi e dall'attorcimento nevrotico della politica bisogna restituire alla politica la propria nobiltà. E la nobiltà della politica vive nella contesa delle idee e dei programmi. Anichi, l'attorcimento della politica. Ma che stai a dire? Un grande italiano. Siamo qui, 800240024. Prima di presentarvi il primo ospite, beh, l'uomo del giorno, lo avremo più avanti, Marino Mastrangeli, senatore espulso dei 5 Stelle. Hanno definito la D'Urso una puttana, sentite. No. Sì, senti. Un'altra cosa, poi appena rientrato in ufficio, perché io continuamente lavoro dalla mattina alla sera, appena rientrato in ufficio ho incontrato un altro membro di questo gruppo di comunicazione e mi ha detto: cosa ci puntini puntini ZO e c'è andata a fare, ci sei andato a fare dalla D'Urso urlando. E poi ha aggiunto: la D'Urso, la Barbara D'Urso è una P puntini puntini Ana. Ha capito con chi ci ha. E che è successo? Oh, e si è bloccato, è esploso tutto. 800 24 00 24, è con noi Don Paolo Farinella, buonasera. Buonasera. Come sta, caro Farinella, come sta? Come vuole che stia, come sta la povera Italia. Cioè, momento. Come si sente, Don Paolo? Ma guardi, prendo atto perché io sono 4 anni che avevo detto queste cose. Cioè avevo cosa? Detto che il PD si sarebbe diviso in 3 tronconi. Questo già 3 anni fa. Sì, sì. Che sarebbe imploso, sì. E che non sarebbe stato assolutamente capace di gestire nemmeno una non vittoria, come sta dimostrando. In più adesso io sono pienamente legittimato a dire che sono tutti al libro paga di Berlusconi. Ah, lei sta dicendo che il PD, o almeno gran parte del PD, perché ci sono stati... Certo, ci sono due ipotesi di scuola. Una, sono tutti al libro paga di Berlusconi. Due terzi del PD sono ricattabili e quindi penso che Berlusconi li ricatti. Cioè li paga, l'altro secondo terzo, lei, cioè li ricatta perché... L'altro terzo, sì, probabilmente se li è comprati, o la terza ipotesi più probabile è che non hanno nemmeno bisogno di essere comprati perché si regalano gratuitamente. Addirittura, lei è così duro, sì. Don Farinella? No, non sono duro, no, perché dalle cose che ho sentito, che avete detto, quelle che stanno dicendo, ma si, sì, rende conto? In una situazione come questa, sì, la ex presidente del Senato che parla di tutela dei dirigenti, ma siamo proprio nella demenza non solo senile, siamo proprio nel c'è un proverbio latino, sì, che dice a quelli che Dio vuol perdere, sì, prima li fa impazzire. Cioè sono impazziti secondo lei? Questi sono tutti impazziti, sono tutti pazzi e non sono, sul dire, traditori, sono è semplicemente fargli un complimento, perché il tradimento è nobile. Sì, sì, invece... Il tradimento è nobile, almeno ha uno scopo. Sono meschini, cosa sono? Questi sono veramente meschini, sono veramente da buttare via, abbiamo perso un sacco di anni. Cioè come Berlusconi, dice lei, sono questi del PD, alla fine sono uguali. Direi che adesso si sono dimostrati ancora peggio di Berlusconi, peggio. Se lo dico io, guardi, lo so. Vorrei chiedervi, sì, se voi avete la possibilità, sì, di dire a quelli del PD, sì, che io sono disposto a fargli il funerale gratis. Gratis. E lo faccio solenne anche. Ah, facciamo un bel De Profundis. Com'è che si recita? Infatti, non meno male che Giorgio c'è, bisogna cantare il Requiem Aeternam. Ma per il PD, questi, dice, a questi, per il a PD, questi, dice lei, no? No, dico per il PD, dice lei, il Requiem Aeternam per il PD. Per il PD, certo. Scusi, ma in più, come fa? In più poi abbiamo, sì, abbiamo questa elezione del Presidente della Repubblica che tutti indenzano, io l'ho chiamato, sì, l'ho chiamato Re Giorgio, sì, Re Giorgio II, imperatore di Negus d'Abissinia, imperatore di Albania, un affare del genere. Cioè, non è concepibile, la Costituzione è andata a farsi fottere, insomma. Ma il suo presidente Don Paolo è come a farsi fottere? È il suo presidente Don Paolo? Sì, va bene. No, ma è il suo anche, no? E lo sente come suo, dire, no? Lo sente come suo, da no? Da un punto di vista, diciamo, delle forme, hanno rispettato probabilmente, sì, le forme, ma nel momento in cui lui ricatta il Parlamento e dice fate quello che dico io o mi dimetto, me ne vado via, sì, e quindi verrà fuori un governo nominato dal Presidente, queste competenze la Costituzione non gliele affida, gli affida semplicemente il compito di nominare il Presidente, sì, del Consiglio e di nominare i ministri su proposta del Presidente. Dunque del secondo lei facendo poi così deve stare zitto, per cui, sì, io questo Presidente non lo riconosco più come mio dopo quello che sta succedendo. Ho capito, questo è molto chiaro. Abbiamo Don Paolo Farinella, prete della diocesi di Genova, collaboratore di Micromega, come al solito pungente, come al solito feroce, ma nello stesso tempo genuino, caro Parenzo, genuino, dice quello che pensa, no, e io lo difenderò sempre, anche se non sono d'accordo. La sai la massima di Voltaire? Com'è la massima di Voltaire, Don Paolo? La massima di Voltaire, che lei darebbe la vita perché io possa esprimere la mia opinione. Se, no, qualcuno la vuole minacciare, la vuole cacciare fuori dalla chiesa, Qui avrà sempre uno spazio aperto, eh. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Why don't you go home? responsabilità politica da parte di chi lo sostiene, ma con bassa caricatura politica delle figure che ne fanno parte. La Bindi vuole il governo col PDL, ma senza il PD, un governo a bassa cacatura politica. Tra l'altro ha detto anche: noi non siamo mai stati inaffidabili, la Bindi, durante il discorso. Mi suggerisce un amico, me lo ricorda, anzi un amico, dopo tre votazioni in cui si sono fregati l'uno con l'altro, insomma, capito? Vabbè. Si sono sparati l'uno l'altro, ma io non capisco perché Don Farinella... Sì. Che fa delle analisi anche lucidissime, però non si occupa più delle sue anime, della sua chiesa. Ma che ne sai? Lui, ma perché dice queste stronzate? No, lo dica, ma, queste stronzate. Ma no, non può dire queste cose. Io non ho mai visto un'anima. In che senso? Le anime non le vedo io. Come no? Le anime in senso di persone. Sono le anime? Io vedo delle persone. No, ma in questo senso, no? Anime, persone. Vabbè, allora aggiornatevi anche nel linguaggio. Io mi sto Farinella, oltre a scrivere su Micromedia, sono un cittadino, non posso avere la libertà di pensare partecipare alla vita politica del mio paese. Si occupi delle anime, dei problemi della Chiesa, delle sue anime, anziché... Ma mi occupo anche di quelli, mi occupo, perché sono gli stessi. Qui adesso che tutti parlano perché, di tutto, scusi, perché deve poter parlare prete, solo no? Lei? Giusto, il giusto. Lei ha qualche diritto in più, ha qualche pisello in più per poter parlare, scusi. Come dice, scusi? Sì, ha qualche pisello in più. Lei ha qualche diritto in più per parlare. Io parlo come cittadino, e come cittadino ho il diritto di esprimere la mia opinione. Avete un pisello? Dal fatto di essere uomo, donna, religioso, non religioso, ateo, miscredente. Ha ragione, avete un pisello tutti e due. Avete un pisello tutti e due. Avete un pisello tutti e due. Vabbè, che c'entra? No, ma è così, è una metafora. È una metafora. Tu non ne hai due. Non ne hai due. Non ne hai due, caro Parenzo. Ma che e questo lo dici tu, intanto. Comunque non importa. Voglio dire, il prete faccia il prete. C'è bisogno di tornare. Il prete faccia il prete. Faccia il prete. A proposito, Don Farina, lei si è mai innamorato di una donna, Don Paolo? Eh? Si è mai innamorato di una donna? Tante volte. Ma anche con la tonaca, da quando sì, però sono sempre stato coerente con la mia scelta, perché a quest'ora, anche perché avendo una visibilità non potevo... Ah no, certo, non c'è la visibilità. Il segreto degli scheletri è di non avere armati. Cioè, in che senso, scusi? Ah, non bisogna nemmeno avere armadi, dice lei. Beh, certo, se lei non ha l'armadio non ci può mettere manco gli scheletri. Cioè, lei è stato innamorato, ma ha mai consumato con una donna? No. Mai. Nemmeno prima di mettere l'abito talare, come si dice. No, perché sono entrato abbastanza ragazzo. Cioè, non ha mai provato il sesso, lei? No. Don Paolo. Beh, è una mancanza questa, però. Questo lo so. Stai zitto un attimo. Infatti lavoro per un celibato libero. Cioè, vorrebbe, lei dice... No, vi chiedo che sia libero, cioè ognuno se uno si vuole sposare si sposa, se non si vuole sposare non si sposa. Ma ogni tanto ce l'ha avviene. No, ma io sono d'accordo. Per tante persone. Ma ogni tanto qualche tentazione ce l'ha? Alla mia età ormai le tentazioni non arrivano. Sacro Cuore di Gesù, non ti posso offendere più adesso alla mia età. Quanti anni ha lei, Don Paolo? Scusi. Ho 66 anni. Vabbè, 66 anni, uno ha anche un'attività sessuale, diciamo, se non fosse prete, guardi Berlusconi. Vabbè, ma lui c'ha tutte le carrucole. Lei dice, dico, è tutta l'impiantistica ingegneristica. Le punturine e affini, dice lei, no? È affini. Certo. Comunque alla fine Napolitano le dice una garanzia per Berlusconi, no? Eh certo, il vero vincitore è Berlusconi, perché come dire, cioè Napolitano lo garantisce alla quadratura del cerchio finale, perché le prossime elezioni le vincerà lui, e con la sua maggioranza fra un paio d'anni lui salirà a Quirinale. E dunque Napolitano, questa è la prospettiva, certo, Napolitano, e questo dobbiamo ringraziare il PD, e in parte anche dobbiamo ringraziare il Movimento 5 Stelle che ha fatto delle gaffe notevoli in questo periodo. Cioè anche con, dice, non alleandosi con il PD. Bastava semplicemente che all'inizio avessero portato loro delle proposte, non semplicemente mettersi lì sulla riva del fiume credendo di aspettare i cadaveri degli altri, senza sapere che il Parlamento è pieno di filibustieri, insomma. No, ma lei su adesso questo... sono loro nell'angolo. Ma ci sono molti del Movimento 5 Stelle che la pensano come lei, eh? Lo so, perché io vivo in mezzo alla gente, sì. Non alle anime, vivo in mezzo alla gente, so che cosa pensa la gente, perché io sono tre quarti della mia giornata e li passo sul marciapiede con le persone. Senta, ma Napolitano è il presidente dell'Inciucio, cioè lei è proprio... solo dell'Inciucio, ma proprio del matrimonio contro natura. Del tradimento della Costituzione. Addirittura. Sì. Cioè, ma adesso, perché tradisce la Costituzione, Napolitano? Don Paolo ti spiega la Costituzione. No, dico semplicemente un'opinione, perché le cose che ha detto ieri nel suo discorso è il discorso di un imperatore, non è il discorso di un presidente della Repubblica, sì. Con dei limiti ben precisi. Ma c'è da scappare dall'Italia? Ma c'è da scappare dall'Italia? Io non scappo dall'Italia, sono stato via da 5 anni, non scappo. C'hai fedeli, cosa consiglia? A livello di tentazione verrebbe la voglia, però non posso lasciare la gente da sola, insomma. Senta, figuriamoci. Io combatterò fino a 3 giorni dopo la mia morte, ecco. Figuriamoci, non può lasciare la gente da sola, come se la gente a Genova dicesse non c'è Farinella. Oh, disperazione. Dai, non ho capito che cosa ha detto. Dai, esprimiti meglio. Lei ha detto non posso lasciare, ho un impegno civile, non posso lasciare la gente da sola, come se a Genova le persone si svegliano la mattina e dico Farinella lei in questo modo, se fa questo commento è ridicolo, perché io volevo dire semplicemente che condivido condivido le gioie, i dolori, le angosce, le speranze e quindi lei ha fatto bene quel tizio a insultare Franceschini, l'avrebbe fatto anche lei, Don Paolo? Beh, forse se gli avessero messo le mani addosso forse avrebbero capito qualcosa, visto che non capiscono con le parole. Cioè bisogna mettere le mani addosso in qualche caso. A questo punto, guarda, questa gente se li attira proprio. Sì. Chiede più protezione, ma chi la guarda quella lì, che non è stata capace nemmeno di eleggere un presidente del Consiglio. Della Repubblica, dice lei. No, ma scusi, prima del Consiglio e poi della Repubblica. Cioè, scusate, Luca... prima la proposta. È legittimo mettere le mani addosso ai dirigenti del PD in questo caso, secondo lei, da parte della folla? Perché io vedo che c'è una rabbia nella gente, c'è una rabbia nel paese che è veramente che si tocca con le mani. Per fortuna che in questa circostanza il Movimento 5 Stelle in un certo senso ha catalizzato. Lei ha notato che Grillo ha cambiato un pochettino negli ultimi giorni. Prima ha parlato di golpe, ha chiamato la piazza. Sì, ha parlato di golpe, ma non con la stessa irruenza con cui ne parlava prima. E poi ha precisato non il viaggio su Roma, non la marcia su Roma, non il... Don Paolo, ma lei ha mai fumato una canna in vita sua, Don Paolo? No, veramente questa esperienza proprio assolutamente mi manca. Però sarebbe il caso, eh? No, non credo, non mi manca proprio, guarda. Parenzo, che dici? No, voglio dire che adesso dovrebbe chiedere scusa a Franceschini, dovrebbe dire, guardi, onorevole, mi dispiace di quell'aggressione verbale che ha subito, lui è un prete, questo dovrebbe fare, non incitare la folla al linciaggio di uno. Non incito, prendo atto che c'è un'esasperazione talmente grande nel paese, potrebbe veramente diventare incontrollata. Scusi, ma Napolitano non è troppo anziano, scusi, dobbiamo chiudere, Don Paolo, Napolitano non è troppo anziano, secondo lei? Certo che è anziano, e io, come dire, per questo lo rispetto, di questo non gliene faccio una colpa. Non ho mai detto, fatto un accenno all'anzianità. Meno male. Don Paolo, devo chiudere, la ringrazio molto, un abbraccio, d'accordo. A presto. Mi raccomando, sempre sul pezzo, a tra poco. Perché deve poter parlare solo lei? Lei ha qualche diritto in più, ha qualche pisello in più per poter parlare, scusi. La Zanzara. Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aglia nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a... Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24, chiamate, iniziamo con Antonio da Enna, iniziamo con gli sgommati Napolitano e il sottoscritto. Io sto a fine mandato, mancano 4 giorni, tengo 88 anni e maggio tutto cazzo. E maggio toglie la soddisfazione. E quale? A me quel Cruciani della Zanzara. Vi siete fatti prendere in giro come babbei, anche voi grillini. Ma veramente. Ma stai zitto! Mo si fa come dico io. Ha già fa una pazzia. Prima di lasciare il Quirinale voglio pareggiare il conto con sto Cruciani. Pronto, casa Cruciani? Sì? Sono Napolitano. Oh, presidente, che onore. Lascia fa, ti voglio dare un'esclusiva. Ah, grazie. Prendi carta e penna. Fatto. Lo sai chi sarà il prossimo presidente della Repubblica? Chi? Stuga! Oh, 1-0 e palla al centro. Aio, già fa sempre tutto io. Napolitano che diceva chi sarà il prossimo presidente della Repubblica. E invece era lui. Vai a cercarne un altro. TG3 titoli: chi sarà il presidente incaricato? Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Consultazioni lampo di Napolitano, l'incarico forse già stasera, ipotesi Amato o Letta. Renzi, la mia candidatura? La più sorprendente, ma non è sul tappeto. Berlusconi, governo politico forte e non di passaggio. I Montiani, esecutivo stabile per le riforme. Maroni, subito un governo, ma non parteciperemo. Vendola, no al governissimo, non diamo la fiducia se c'è Berlusconi. Fratelli d'Italia, no a larghe intese, ma se ci fosse il sindaco di Firenze potremmo valutare. La direzione del PD, Bersani conferma le dimissioni, nel partito anarchismo e feudalizzazione, ampia maggioranza sul documento di sostegno Napolitano. Grillo, in autunno Italia in bancarotta e torna a parlare di golpe. Alle Quirinali hanno votato solo in 28.000, Crimi e Lombardi, siamo noi l'unica opposizione. Vola la borsa, spread sempre più giù, ma le famiglie tagliano spese alimentari e sanitarie. Banca Italia, le tasse record frenano crescita e imprese. E la Francia diventa il 9° paese europeo a consentire il matrimonio tra gay. La piazza di Parigi divisa tra feste e proteste, timori di manifestazioni contro la legge. Le zanzare di casa mia. Potrebbe essere Giuliano Amato, rincorso dei cronisti? Sentite come risponde: io sono presidente del tennis club di Orbetello. Io lo sono stato, in base alle regole italiane c'è un sem e il semper, mi chiamano sempre presidente, io mi riferisco al tennis club di Orbetello. Mi adorano perché sono pazze del mio sogno. Poi un giornalista dice: quanto hai in banca tu? Mi adorano perché. Lei è rimasto famoso per questo prelievo sui contribuenti italiani. Basta, scusate. Si potrebbe ripetere? No, scusate, eh? Si potrebbe ripetere? Quanto ce l'hai in banca, mi dica, mi dica. Io molto poco. Poi in realtà ha detto di no al prelievo sul conto in banca. Gli hanno chiesto se lei diventasse presidente del consiglio farebbe di nuovo il prelievo oppure una patrimoniale. Lui ha risposto di no, non si capisce se no non voglio rispondere oppure no eccetera. No dice lui sempre no. Ma quanto ha sul conto alla fine? Boh, il giornalista, non lo so quanto ha sul conto. Ma no, il giornalista lui. Ma che no, non era mica lui, quanto ha in banca il giornalista che diceva Amato. Che ne so quanto ha in banca Amato. Ah, pensavo gli avessi chiesto quanti soldi ha Amato sul conto. Ma non capisci un cazzo, dai, su. No. Mamma mia. D'Alema, denuncio chi dice che sono stato io a far cadere Prodi. Qualcuno dice che dietro per esempio l'operazione Prodi, il naufragio, ci sia comunque la sua regia. Ma è una vergogna autentica, diciamo, chi dice questo è un calunniatore, io lo denuncerò, diciamo. Poi a Piazza Pulita dice: beh, la colpa è di chi ha candidato Prodi, non si può candidare Prodi in quel modo, e su questo devo dire D'Alema ha ragione. Dietro la sconfitta di Prodi c'è la regia di chi l'ha candidato in un modo francamente assurdo, perché non si può tirare fuori in questo modo la candidatura di Prodi senza una preparazione, senza un'alleanza, quindi si cercano capri espiatori per errori politici che sono stati compiuti in persone che non c'entrano nulla. Io, come vede, vado a spasso con il cane, non organizzo complotti. Si nutrono di me quando il giorno scivola. Vado a spasso con il cane, non organizzo complotti. Svegliano per me quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Bene, Antonio da Enna, buonasera Antonio. Buonasera Cruciani, buonasera a tutti. Vada, vada. Dovete rimborsarmi un telefonino, Cruciani. Perché? Perché l'ho buttato per terra mentre parlava il prete genovese, di cui non ricordo il nome. C'è incazzato, dice lei. E me che, veramente, cioè, a tutto c'è un limite. Comunque, scherzi a parte, io da semplice cittadino volevo ringraziarlo Napolitano perché ha fatto un intervento meraviglioso, cioè rimarrà secondo me nella storia. Vabbè, ringrazia Napolitano, non è che ci abbiamo, non è che noi abbiamo bisogno di lei, da Antonio da Enna, che ci chiama per ringraziare Napolitano, ha capito? E che cazzo, ma posso parlare bene di Napolitano? Sì, lei può parlare bene. Male, no, no, veramente nessuno ne parla male. Ha bisogno del prete per caso che la chiama per dire che Napolitano è andato oltre la Costituzione, queste cazzate assurde. No, io non ho bisogno del prete, però se lei mi fa un discorso bene, non è che mi, se mi dice... No, posso dire che in questo mediocre paese che parla sempre male della politica, Napolitano col suo discorso ha dato un nuovo lustro alla politica, sebbene per un'ora? Sì, per carità. Questo è molto giusto. Per carità, per carità. Cioè, posso dire che deve essere un esempio sia per gli eletti che per gli elettori? Sì, sì, sì, bravo, Antonio, certo, lo può dire. Dire, lo dire. Oh, benissimo, Ciro da Roma, buonasera. Eccomi, vada. Dove sta Parenzo? Io devo parlare con Parenzo. Qui, nascosto, eccomi, in Gattabuia. Ah, perché a me Parenzo mi sta tanto simpatico. Lo mettiamo secondo in sala moia. Bene, fate bene. Rappresenta la vis progressista di questo programma. La vis progressista del programma. Vabbè, Ciro, ma come parla? Lei parla, parla come la Bindi, adesso, forse adesso peggio. Cambio, ecco, bravo. Ma io mi aspettavo, mi aspetto da Parenzo un attimo di sgomento in più, proprio perché lui è di sinistra. Qualcuno perché? Che dica basta con sta gente di sinistra. Oggi avete visto questo direttivo, c'erano le stesse facce di ma si sono dimessi fa. Tutti, disinformi. Bersani si è dimesso, la Bindi, che devono fare? Stai calmo, lascia parlare Ciro, stai tranquillo. Sto parlando con lei, io mi aspetto che Parenzo dica ciò che tutti gli uomini di sinistra vogliono sentirsi dire. Noi vogliamo essere sorpresi, vogliamo un po' di novità, non questa gente che si prende a bastonate sui coglioni e continua a farlo. Basta confrontarsi con il centrodestra, basta i soliti nomi, basta le solite litanie. Siamo lì con la candela in mano a guardare la salma e a meravigliarci perché sembra che sorrida. Due coglioni non si sopportano più, cambiamo prima noi e poi facciamo la guerra contro l'avversario, contro il demone nano, contro chi vi pare. Questo mi meraviglia in Parenzo, che lo sento come una persona onesta, anche vivace, anche brillante, ma a differenza di Cruciani non sempre riesce a dare quell'impulso che noi di sinistra potremmo sentire. Intanto i 5 Stelle rompono con Crocetta in Sicilia, è un inciucio dappertutto, dicono. E la Bindi parla di cacatura politica, ci vuole un governo a bassa cacatura politica. Sentite. Con grande responsabilità politica da parte di chi lo sostiene, ma con bassa cacatura politica delle figure che ne fanno parte. Lei russa e non si sveglia mai, lei russa e sogna i fatti suoi. Il fondamentale suggerimento, la fondamentale aggiunta di Franco, tra parentesi Marini, alla fine della direzione del Partito Democratico. Senza questa aggiunta nel documento finale non ci svegliavamo domani mattina. Il documento che avete ricevuto, Franco, prego. Franco suggerisce di aggiungere all'emergenza economica e sociale il riferimento in particolare alla parola del lavoro, lo mettiamo direi. E beh, se non si aggiungeva la parola lavoro, effettivamente erano cazzi, eh? Erano cazzi. E me pinza sulla panza. Allora, secondo Della Valle, che dice delle ovvietà clamorose, io non, francamente non riesco a capire nemmeno perché viene invitato alle trasmissioni. Il signor Della Valle dice delle cose di una ovvietà che, spaventosa. Imprenditore, a meno che non abbia qualcosa da dire, ovviamente, su, su Montezemolo contro. Su Berlusconi. Berlusconi, cioè, Prodi andava bene, conosce il volontariato. Secondo me Prodi era adatto a fare questo mestiere, perché è un uomo che ha una reputazione internazionale riconosciuta, è una persona che conosce il mondo del volontariato, conosce. Beh, conosce il mondo del volontariato, è fondamentale, eh? È fondamentale. Mastrangeli, lo sentiremo tra poco, prima la borsa, 800 24 00 24, il senatore Mastrangeli espulso da 5 Stelle, sarà tra poco il nostro ospite. La Zanzara. Salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba butto spesso il tuo corica, corica, non voglio farti fretta ma troppo inizia la festa. La metafora straordinaria di tutto questo ce l'ha regalata Gerardo Colombo. Ma lo ringrazio, che ci ha fatto capire tutto. Chiedo la tessera per stracciarla, cioè entro in uno spazio per illuminare al meglio la mia soggettività. E se andiamo avanti così, cari compagni e amici, se andiamo avanti così, troveremo anche un circolo che gliela dà la testa. Beh, devo dire, in questo caso appoggio totalmente Bersani, proprio con la spada sguainata, con la spada sguainata. Ma come non si vergogna, si dovrebbe vergognare Gerardo Colombo, il tuo amico Gerardo Colombo, si dovrebbe vergognare, messo lì dal Partito Democratico, messo lì dallo stesso Bersani, sbagliando, commettendo un errore enorme, messo lì come consigliere di amministrazione della RAI, da giurista, da magistrato, da ex magistrato, eccetera, che non c'entra nulla con la gestione della televisione pubblica, messo lì che a un certo punto dice: no, siccome non avete eletto Rodotà, io adesso prendo la tessera del Partito Democratico e poi la straccio. Ma dico, ma siamo matti o stiamo ragionando sul serio? Ma sì, se entrasse dentro una sezione del Partito Democratico adesso, fossi il segretario di quella sezione, lo piglierei a calci nel sedere. Robe incredibili, succedono delle cose pazzesche, succedono delle cose normale, pazzesche. In un sistema come questo è ovvio che dove siete. Ma è stato una anche, volta è stato fin troppo tenero Bersani. No, ma è evidente che, cioè, della Prima Repubblica non sarebbe mai accaduta una cosa simile, ma perché ma i partiti la Prima Repubblica, che c'entra? Ieri ho sentito in un sistema come questo. Oddio, ma che me ne frega così del sistema? Parla come mangi il sistema. Sentiamo, ma io ieri parlo così. In un servizio in un sistema come questo. Oddio, è ovvio che lui ha avanti, su. Lui pensava di essere espressione di un partito, non si riconosce più e ma si permette di dire. Ma quale espressione di un partito? È semplicemente ha detto una stupidaggine, punto e basta. Si riconosce in un partito, non c'entra nulla. Ha espresso parere da cittadino. Da cittadino. Ha espresso un parere da cittadino. Bah. Avete capito quello che ha detto Parenzo voi? Ha espresso un parere da cittadino. Ma se non si riconosce più nella linea del PD, adesso a me non interessa se lui non si riconosce, mi interessa che sia un bravo amministratore della RAI, francamente. Sì. Non mi interessa. Vabbè. Se abbiamo perso alla troppo, no, abbiamo perso troppo tempo intorno a questa vicenda di Gerardo Colombo, dai. A me l'appartenenza interessa poco, a me interessa capire se uno è un bravo o non bravo amministratore. Vabbè, mi fai sentire una che ieri ho intravisto in un servizio sulle elezioni in Friuli, una manifestante che a un certo punto si è scagliata contro Berlusconi. Sentiamola perché voglio dire qualcosa. Vergogna! Vergogna! Vattene! Vattene! È per colpa tua che non abbiamo un futuro! Vattene! Vattene! Cioè io questo questo grido lo voglio mandare per 10 giorni di seguito. Io spero che sia intervenuta o l'ambulanza direttamente, no, padre Amort, o padre Amort per l'esorcista, oppure spero che dopo non sia andata ad ammazzare la madre, perché una che urla così a no, chiunque, ci vuole padre Amort. Ma no, secondo me dopo è andata ad ammazzare la madre. Oddio, padre Amort, vogliamo intervenire o no? Ma chi è questa qua che era il comizio di Berlusconi finale, credo, a... Sono qui a parlare. Vai via. Vai via. L'avete visto? Vai via. Sì. Vai via. Ma l'hanno portata via alla fine questa qua o no? Se la sono portata via in 4-5 o no? Perché questa qua, se non la portavano via, andava a ammazzare la madre sicuramente. Fabio da Roma, buonasera, 800-24-0024, Fabio. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Allora? Parenzo riesce a litigare anche con i preti, è assurda sta cosa. No, Parenzo ha fatto bene in questo caso a litigare con i preti, dovrebbe dire un po' meno di ovvietà e di cazzate, vabbè, però comunque, questo è un altro discorso. Comunque quel Don Abbondio, quello che... Don Farinella si chiama, Don Paolo chiamare? Farinella, sì. No, no, Don Barricate, quello lì altro che Don Barricate, che Don Farinella, Don Barricate. Ma è Don Barricate, bah, sì, Don Barricate, okay. Che vuol dire Don Barricate? Sì, è un don che è sulle barricate. Sì, allora Fabio. Sì, vabbè, comunque... Don Micromega, ecco. Non ha molti torti quando dice che molti politici sono comprati da Berlusconi, eh? Basta vedere le televisioni, insomma, sono pieni di gente che non c'entra niente con la destra. Ecco lì la dimostrazione che comunque qualcosa c'entra. Ma io non volevo dire questo, volevo dire il fatto che comunque il Movimento 5 Stelle, secondo mio parere, praticamente è boicottato dai giornalisti. È il semplice fatto che ogni volta che gli fanno le domande... fanno come se fosse una presa per il culo. E io capisco che il Movimento 5 Stelle è una cosa nuova, no? Però è l'unico che è rimasto comunque coerente alle proprie azioni. Ora è stata fatta la consultazione un'altra volta col Presidente e hanno rinnovato le loro idee, le stesse medesime idee che hanno rinnovato quando si sono candidati. Vabbè, allora è semplice fatto che comunque la cosa che mi ha impressionato quando quell'inverocondo di Ferrara, perché quello è un inverocondo, ha detto la cosa che mi ha dato fastidio, ha detto non scoperchiate quella pentola col brodo, il fatto di brodo, perché ma che sta dicendo molti. Ma che sta dicendo? Di cosa sta parlando Fabio? Di cosa parla? Non ho capito. Di quello che ha detto Ferrara. Ma quando? L'ha detto a un'intervista. Vabbè, a risentirci. Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'uomo. Marino! Eccoci. Com'è andata? Male, lo sai, Cruciani, che questa quando lavoravo al Ministero dell'Interno, ogni volta che arrivavo a lavorare i miei colleghi mi cantavano proprio questa canzone. Cioè, com'è che facevano? Marino, la sagra c'è dell'uva, fontane che danno vino. Mi ricorda vecchi tempi. Com'è che, ma i suoi colleghi poliziotti? I miei colleghi poliziotti che mi vogliono tanto bene, l'altro giorno ci siamo incontrati davanti a Palazzo Montecitorio, è stato bellissimo. Ma ancora si ricordano? Lei quanti anni fa è uscito dalla polizia, Marino? Quanti anni fa è andato via dalla polizia lei, Mastrangeli? Dal 2007 abbiamo un rapporto di amicizia molto lungo, in un ufficio sono stato 12 anni. Mastrangeli, dove si trova lei adesso? E io adesso sono sul treno che sto andando a parlare con i cittadini ciociari. I cittadini ciociari, capito Parenzo? I cittadini ciociari. Perché i cittadini ciociari dovrebbero, come dire, avere voglia di sentire la vicenda, tutta vicenda che ti riguarda dopo la cacciata dal movimento? Beh, perché sono molto interessati anche perché mi hanno votato. In Sicilia la media è stata di 23% al Senato. Hai preso 64 nella mia città, Cassino, 26%. Marino, hai preso 64 voti, però quanti voti hai preso? Quelle sono le parlamentari online, cioè erano tutti i veri iscritti del movimento. Beh, le parlamentarie quanti voti hai preso? 64, no? Sì, la capolista invece di Roma, la capolista di Roma, Federica Daga, ha preso 390 voti con il triplo degli aventi diritto al voto. Ho capito, però tu sei diventato senatore con 64 voti, diciamola tutta. Sì, ma non c'è problema. Io continuo a dire che dobbiamo potenziare il nostro sito proprio per far votare il maggior numero di persone. Certo. Scusa un attimo, ma voglio capire una cosa. Chi è che ha dato della puttana alla D'Urso? Tu oggi l'hai detto chiaramente in un'intervista. C'è qualcuno? Io non ho detto quella parola. Beh, hai detto paesana. La dico io. D'Urso intelligentemente ha detto paesana. Vabbè, però non era paesana, dai, su, Marino, su. Vabbè, però... lo so che voi ci volete ricamare, ma non torcerete nemmeno sotto tortura. No, scusi un attimo, non è questione di sotto tortura o no. Vogliamo far risentire questa cosa che ha detto Mastrangeli, perché così almeno è tutto chiaro. Non è che, per carità, poi va bene essere prudenti, non poter dire le cose, però quelle sono le cose, altrimenti ma tra persone intelligenti non c'è bisogno di ripetere sempre la stessa cosa. No, ho capito, però noi vogliamo sapere chi ha pronunciato questa parola. Poi se mi querela poi dopo verrà fuori, così vediamo se ho detto la verità. No, però scusa, Marino, risentiamo quello che hai detto. Signora Barba, le dico anche un'altra cosa, poi appena rientrato in ufficio, perché io continuamente lavoro dalla mattina alla sera, appena rientrato in ufficio ho incontrato un altro membro di questo gruppo di comunicazione e mi ha detto: cosa ci puntini puntini ZO e ci sei andata a fare dalla D'Urso urlando. E poi ha aggiunto: la Barbara D'Urso è una P puntini puntini Ana. Ha capito con chi ci abbiamo a che fare? Vabbè, questo conferma quello che diciamo noi ieri, cioè che in realtà non volevano che lei andasse dalla D'Urso, che tu andassi dalla D'Urso. Questo mi pare chiaro. Confermo. Allora, però, quella parola, e non diciamo quella parola, io l'ho detta all'inizio, non diciamola più. Potrebbe essere paesana, potrebbe essere P qualcos'altro. Ah no, ma io infatti ho chiesto il permesso alla signora Barbara, gli ho detto: guardi che è un po' volgare quello che devo dire. E lei era un po' incerta, ho detto: al limite ci metto i puntini. Allora mi ha dato l'ok e io sono partito. E vabbè, ma chi l'ha pronunciata quella parola? Non si può dire. Messora. Aspettiamo la querela, vediamo che così poi vediamo se ho detto la verità. Messora, dai, l'ha fatto Messora, su. Claudio Messora. No, io non dico niente. Vediamo chi querella, poi dopo vediamo se ho detto la verità davanti a un giudice. Ma d'accordo, a parte che la parola di uno contro la parola dell'altro non si va da nessuna parte. Infatti, vedremo. Ma ci divertiremo in tribunale. Sì, ormai il suo rapporto con i 5 Stelle finisce in tribunale, mi pare di capire, Mastrangeli. No, dipende da loro, io non querelo mai nessuno. Però scusi un attimo, Mastrangeli, io voglio capire una cosa. Queste brutte parole, perché che cazzo vai a fare, perché di questo si tratta, sì. E quella P puntini puntini puntini della D'Urso, qualcuno le avrà pronunciate? Sì, in più anche nemica, è nostra nemica, P e nemica. Nei confronti della D'Urso. Sì. Allora, sì. È qualcuno del gruppo della comunicazione, lei dice, no? Sicuramente. L'ho già detto. È qualcuno del gruppo della comunicazione. Allora, sì. Vogliamo... chi è il portavoce? Sì. Chi è Nick il Nero? Nick il Nero? Ripeto, aspettiamo a vedere se querelano, ma non quereleranno perché sanno che poi dopo viene fuori la verità. Rocco Casalino, no? Vabbè, comunque. Non mi pronuncio, aspettiamo la querela. Aspettiamo la querela. Ma comunque, Mastrangeli, io non ho capito. Più Casalino. Beh, non lo vuole dire, è inutile, dai. Non lo vuole dire, giustamente. Aspetta che qualcuno. Non è il mistero di Fatima, Mastrangeli. Cioè, non è il dossier Moro, Non è il dossier Moro, però vabbè. Non sono le carte segrete. Capiamo che lei non voglia rispondere, per carità. Non è la strage di Ustica, voglio dire. Scusa, mi sa che ci sono un po' più di problemi, un po' più importanti in Italia. Sì, va bene. Dice Cruciani. Sì, intanto saluto anche Davide, che non ho ancora salutato, e saluto i telespettatori, i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Grazie, bravo. Ringraziano e ricambiano. I compagni. Bruce Lee, ci ripeta quella favolosa frase su Bruce Lee, lei si sente Bruce Lee, ne a terra 50 alla volta. Com'è sta storia? Sempre in maniera non violenta. Ma che vuol dire? Perché si sente Bruce Lee? Io sono aspetti, Mastrangeli, che non la sentiamo più. Dove diavolo si trova? In che tratta si trova del treno? Aspetti, adesso sono? Ma sono partito da poco, dopo Ciampino, diciamo. Dopo Ciampino. Sì. Perché si sente Bruce Lee o Bruce Willis? Non ho capito bene. No, allora, perché mi hanno detto lei non riescono, adesso non ricordo la parola esatta, non riescono a farla fuori, sì, così mi hanno detto RTL oggi pomeriggio. Io ho detto sì, perché io sono come Bruce Willis, hard to die. Ah, hard to die, duro, certo. A morire, duro a morire. Certo. Scusi, ma sua moglie politicamente che... Politicamente parlando. Beh, sempre politicamente parlando, sempre. Che dovrebbe essere, se no, scusi? Non ci possono essere altri significati, scusa. Senta, Mastrangi, ma lei è favorevole al matrimonio omosessuale? Io sì, assolutamente sì, però vorrei che si esprimessero tutti i 50.000 iscritti del Movimento 5 Stelle, non vorrei che questi 162 parlamentari che si sono mossi la testa adesso, dopo aver professato che ognuno vale uno, fanno di testa loro e decidono loro, 162, anzi veramente sono stati 4-5 a presentare questo disegno di legge, sì. Non solo i matrimoni gay, che anche il sesso, non vorrei che 4-5... Vabbè, è sparito. Mastrangeli? Mastrangeli è sparito, adesso lo richiamiamo. Michele da Bologna, Michele da Bologna. Ma che ne so. Permesso, sono qua. Io volevo semplicemente lasciarvi una domanda, che poi forse è per Parenzio. Prima della domanda volevo richiamare il solenne requiem di Don Farinella, che invece secondo me è opportuno, perché in effetti ci si trova in una condizione in cui, e questo discorso vale per la domanda che sto per fare, una certa serietà che si richiede ai partiti è mancata. In che momento? Nel momento in cui un partito dovrebbe presentarsi di fronte al Parlamento e dire: bene, abbiamo scelto e questo è quello che vogliamo. Sì, però Michele, i franchi tiratori ci sono sempre stati nella storia della Repubblica. Certamente. Ci sono sempre stati. Allora, non è che quando impallinarono Forlani erano benedetti perché Forlani era l'espressione del CAF, e allora santi franchi tiratori che hanno impedito a Forlani di diventare Presidente della Repubblica, e adesso invece sono brutti, sporchi e cattivi perché hanno impedito al santo Prodi di diventare Presidente. L'elezione del Presidente della Repubblica è una cosa speciale, particolare, non è che si fa tutto in trasparenza, non si fa tutto davanti ai cittadini. È l'elezione del Presidente della Repubblica in Parlamento, con tutti i trucchetti, con tutte le botte, con tutti i tradimenti, con tutti gli accordi che si fanno. È così, altrimenti c'è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che è un altro discorso perché decidono i cittadini, però ci vuole un altro assetto istituzionale. Altrimenti gridare al tradimento dei 101, vogliamo i nomi, vogliamo le foto, sono dei terroristi, eccetera eccetera, è ridicolo, è semplicemente ridicolo. Si tratta di non conoscere come funziona l'elezione del Presidente della Repubblica, in cui si fanno, si regolano piccoli conti personali. La politica è fatta anche di queste cose. È sangue e merda, di che parliamo? Ma non è la mia domanda, non è quello e che qual è la domanda, sono d'accordo allora con lei. No, no, infatti, questa è la domanda che farei a Parenzo, cioè, se anche lui è di questa idea, penso di sì, cioè nessuno qui di noi tre vuole una cosa di questo tipo, neanche io. Però il discorso qual era? Era che si fa un discorso di serietà, no? In un momento in cui abbiamo questo movimento che parte e prende voti, prende consensi, le basi, comunque le persone non sono ascoltate dai partiti storici. Vabbè, allora. Non si riesce a raggiungere un rinnovo di questa politica in nessun modo, neanche gli accordi politici vengono fuori. Quindi alla fine il risultato di questa situazione qui è quella di avere oggi una situazione in cui si delega una persona, e quindi anche in questo devo dire Reggio. Ma l'abbiamo già detto ieri, Michele, cioè, siccome si sono scannati tra di loro, alla fine hanno per disperazione hanno chiamato Napolitano. Grazie. Stefano dalla provincia di Bologna, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Vada. No, volevo farle notare anche, non se la prenda, però mi sembrate un po' assopiti ultimamente. No, Parenzo è assopito, io per niente, guardi, io sono carichissimo. Ah, ok, perfetto. No, e poi volevo chiederle se potevate trovare il pezzo di televisione in cui Renzi partecipa a un quiz. Amico mio, poi dice che noi siamo assopiti, l'abbiamo mandato in onda 48 milioni di volte sto pezzo, e lei ci vuole far tornare indietro nel tempo al momento in cui Renzi partecipava alla ruota della fortuna. Ma allora che vuole da noi? Cioè, ma non solo noi, è la cosa che è stata mandata più in onda in assoluto quando c'erano le primarie eccetera. Lei vuole risentire Renzi che è la ruota della fortuna? Beh, beato lei. In un'altra maniera, mi sembrate che state ribollendo le stesse questioni da qualche giorno, insomma, sarebbe bello trovare qualche spunto nuovo, però ma che vuol dire? Voi siete bravissimi, io mi diverto tantissimo, però mi sembra così, insomma. Mi sembrate un po' che state ribollendo gli stessi argomenti. Sì. Ma solo da qualche giorno, ma io mi diverto tantissimo con la vostra trasmissione. Bene, l'abbraccio forte. Mastrangeli? Oui. Mastrangeli? Ma dove cazzo è? Caterina dalla provincia di Monza. Sì, pronto? Vada. Sì, allora, sono incavolatissima. Sì. Perché primo, per quello che ha detto quella specie di prete, che non è un prete secondo me, sì, che appunto si dovrebbe solo vergognare di quello che ha detto, si dovrebbe vergognare di vestire un abito talare, dovrebbe veramente andarsi probabilmente a rileggere quello che è il Vangelo, quello che sono gli insegnamenti che lui dovrebbe dare e che non dà. Per cui arrabbiatissima con lui e mi vergogno tanto io come credente cattolica che ci possa essere della gente così nella chiesa, è pochissima purtroppo, è pochissima, e però quei pochi ci sono e dovrebbero essere allontanati. E poi incavolatissima con voi perché sì, ma come vi permettete di prendere queste persone, voi le prendete solo voi, andate a cercare col lanternino, perché e io allora, qual i è preti il che no, ma scusi, i preti qual che è il problema, allora scusi, mi faccia parlare per piacere, perché almeno glielo spiego. No, la faccio parlare, lo dico io, lo decido vabbè, io, però, come se, quando se lei mi chiama mi faccia almeno parlare. Veramente chiama lei, noi la richiamiamo, è diverso. I preti che conosco io, sì, sono persone che non sono assolutamente, ma non assomigliano nemmeno a quelle che voi andate intervistate. Voi andate a prendere quattro mele marce per farci un programma, sì, e facendo questo, sapete cosa fate? Fate solo del male, fate del male alla malissimo chiesa, fate del male alla gente. Sono ma preoccupatissimo. Non prende, ascolta, ma sono preoccupatissimo per questa cosa. Non intervistate anche dei preti normali. Dei preti normali, che ci facciamo con i preti? Ma che ci facciamo con i preti normali noi? Almeno la birra, che facciamo con i preti? Un attimo di normalità. Non ma io non devo fare vedere la normalità, non devo istruire nessuno, non devo far vedere la normalità. Perché devo far vedere la normalità che annoia? Perché? Pubblicità. Vattene! Vattene! La zanzara. Il grande Giorgio napolitano è veramente un grande italiano, presidente siamo con te, meno male che Giorgio c'è. Senatore Mastrangeli, canti con noi. No. E nel PD, giocando agli indiani, hanno tirato le frecce a Bersani, presidente siamo con te, meno male che Giorgio c'è. Senatore Mastrangeli, mi dica la verità, è il suo presidente, lei ha applaudito in aula l'altro giorno? Assolutamente no, ero in piedi e ascoltavo il suo discorso. Ma come? Mi stupisce, lei con la Costituzione in mano sta ogni volta in tutte le trasmissioni televisive, non ha applaudito Bersani? Sì, Bersani, no, napolitano. No, assolutamente, perché non lo ritengo un buon presidente. Infatti io ho votato Rodotà. Vabbè, quello era abbastanza scontato, sarebbe stato clamoroso. Certo, anche perché ve lo hanno indicato gli iscritti del Movimento 5 Stelle. Beh, gli iscritti, oggi sono usciti i dati, ma quale candidato del popolo, su? Mastrangeli, dai. Va bene, ma 4.000 voti, poi di democrazia greca. Certo, sì. Dovremmo avere un sito più potente, ci vorrebbero dei mezzi finanziari superiori. Io ho anche proposto ieri nella famosa riunione sulla mia espulsione, ho anche proposto di, siccome siamo 162 parlamentari, di autotassarci per finanziare il sito del Movimento 5 Stelle, sì, ho capito, magari ho capito, assumere un po' di persone a lavorarci per avere anche magari Mastrangeli, un supporto per gli iscritti e magari avere anche sviluppare la piattaforma, però, sì, sviluppare però, la piattaforma. Dopo questa mia risposta c'è stato un silenzio assordante dei miei colleghi che lo sto vedendo. Però, senatore, abbiamo una telefonata. Abbiamo una telefonata importante per lei. Ma io non posso interagire. Posso parlare solo con i conduttori. Se no, guardi, devo chiudere. No, ho capito, senatore. Non è una telefonata importante perché almeno così mi dicono dal centralino. Mi dicono così dal centralino. Non è un politico. No, io non posso interagire. Allora vi saluto. Un attimo, senatore. Un attimo solo, senatore. Non la faccio interagire con qualcun altro. Non è un talk questo qua. Lei lo sa benissimo. No, io devo parlare solo con i conduttori. Non è un talk. È Grillo. Vuole intervenire. È Grillo. Lo so, è Parenzo che ma che Parenzo? Parenzo non c'è. David. Va bene, no, dai, non. Non posso scherzare, non è Parenzo. Io l'altro giorno ero sotto il Quirinale con gli esodati. Non mi sembra il momento di scherzare. Voi ma che ce frega a noi adesso, su, senatore? Nella vita, però voi non siete dei parlamentari, ve lo potete permettere. Io sinceramente non mi sembra opportuno. Ma non è Parenzo, Parenzo se n'è andato, cioè Parenzo non c'è adesso, in questo momento ha un problema, non è lui. Va bene, perché non ci vuole credere? Chi ha dato della puttana? La lascio lavorare. No, ma certo, chi ha dato della puttana alla Dulce? Cruciani. Che c'è? Cruciani. Che c'è? Va bene, Parenzo. Buonasera, ma Strangeli, io non mi posso permettere. Ascoltami, tu lo sai che ci siamo dati delle regole. Tutti i radioascoltatori. Un attimo, ma Strangeli, non è Parenzo, ma Strangeli, ascolta. Strangeli, noi non mettiamo, ma Strangeli, mi ascolti. Mi senti, ma Strangeli, Marino, ci sei, mi ascolti. Buonasera a tutti, arrivederci. Noi non mettiamo la mordacchia a nessuno, cazzo, decide la rete. Vabbè. Decide la rete. Se n'è voluto andare, che dobbiamo fare? Strangeli, ma lo vedi come sono? È tutta la gente che vi ascolta come dei coglioni. Lo so, Grillo, non ha voluto. Quella della D'Urso non è un talk show, non è un programma, è un puttanaio, cazzo. Lo so. Quello non se ne rende conto. Beh, pure lei non è che. Ma che vada dai cittadini ciociari e non vada in trasmissioni come la vostra. Ma pure da noi. Un bordello giornalistico. Lo so, quello un po' è vero. Era in 5 programmi diversi, oggi era qui da voi. Tra tutte le radio ha scelto la peggiore, un furto ai cittadini. Beh, quello va a parlare in giro. Le notizie scomode Cruciani non le date mai. E quali sarebbero le notizie scomode? E quello scomode? Va da un puttanaio all'altro. No, ma questo ragazzi, l'abbiamo detto. Ma questo l'abbiamo... Siete morti, la Repubblica è morta, voi siete morti, siete degli zombie. Ma... E il vuoto, che cazzo ridete, non c'è niente da ridere. E Mastrangeli che va da un puttanaio all'altro. Cazzo. Ho capito, però cazzo. Anche lei non è che si esprime proprio con creanza, cioè, scusi se glielo dico, comunque vabbè, che devo fare, è così, vabbè, ha qualcosa da dire a Mastrangeli che se n'è andato, Grillo, no? Cruciani, quello sì. Che dovevo dire l'ho detto. L'ha detto, vabbè, d'accordo. L'ho detto, basta, ectoplasmi, troll, morti, zombie, vabbè. Basta con questi puttanai, vaffanculo. E vabbè, anche lei però, è così, va bene, grazie. Savino da Bari, buonasera, anzi no, c'era sempre Caterina dalla provincia di Monza. Ha buttato Pronto? Giù il telefono, sì. Caterina, dica. Sì, no, niente. Inizialmente pensavo che mi avesse buttato giù il telefono. No, stavo io non butto mai il telefono giù, tranne in casi rarissimi. In casi rarissimi. Ma lei mi può insultare anche in diretta, non c'è problema. Se mi deve insultare. Vabbè, no, in diretta non mi sembra molto carino. Siete già abbastanza volgarotti voi due. Volgarotti, non esageriamo. Ragazzi, siete volgari. Parliamo come mangiamo, diciamola tutto. Mangiate gran male, figlioli miei. No, parliamo come mangiamo. Comunque, Caterina. Quello che volevo dire, bisogna stare attenti. E come diceva la mia nonna, sì. Scherzar coi santi. Coi fanti ma non coi santi, perché c'è molta, bisogna stare anche molto attenti a quello che è la sensibilità delle persone che vi ascoltano, sì. Dove magari se tocchi la fede, se tocchi determinate punti, non si arriva al livello degli islamici che vengono lì e ti ammazzano, però comunque li fai soffrire, li fai star male. Io qua personalmente non mi ritengo bigotta, sì. Quando dal clero, tra virgolette, dove c'è sicuramente del male ma c'è anche tanto del bene, ho ricevuto tanto e vedo che fanno anche tanto. Senta, ma perché io devo ricevere da lei una lezione sui preti che devo invitare e i preti che non devo invitare? Me lo spiega certo, un attimo. Perché se voi dovete fare comunque tutte e due le campane, sia quello che è il prete marcio, che purtroppo ci sono e sono tutti quelli che voi invitate, a partire da quello lì col sigaro che fa schifo solo a guardarlo, ma che si lavasse un attimino. Don quelli Gallo. Non sono, cioè Don Gallo si deve lavare, secondo lei è sporco? Sì, quelli non sono preti, scusi. Ma è sporco Don Gallo? È sporco? Beh sì, guardate adesso. Beh, comunque adesso quelli sporco, non sono preti. Fuma il sigaro, non è che è io sporco. Io hanno un abito talare e comunque li rispetto per quelli che sono, per cui non dico nessun tipo di parolacce, ma non li vedo come i preti che conosco io, che sono quelli della mia città, che sono quelli del mio paese, che sono quelli, sì, di quando ero ragazza, che si trascinavano dietro i ragazzi in oratorio. cioè questi sono i preti. Allora, se vi dovete fare informazione, fatela giustamente, ne invitate 10 marci e ogni tanto invitatene anche uno per far vedere, perché io non devo fare informazione, devo fare, devo fare una trasmissione radiofonica, una cosa un po' diversa. Ma sa cos'è? Che molte persone pensano, hai visto, te hai visto che lì, guarda, guarda che lì le marce, te hai visto, tutti i preti sono uguali. Ma e chi non l'ha è detto? Giusto. Ma chi lo dice questo? Ma lo dicono in tanti, ma quelli soprattutto magari che non li conoscono. Vabbè, lo dicono. Mi faccia parlare con Savino dalla provincia di Bari, le do un abbraccio fortissimo. Anch'io. Savino dalla provincia di Bari. Savino? Ciao Giuseppe. Come sta? Un abbraccio a te e a... Se ne andata, è tornato David. Vuole abbracciare pure Parenzo. E poi complimenti per la trasmissione. Sì. E il giorno che finisce questa trasmissione io posso pure morire, perché questa è la più grande trasmissione di tutti i tempi e non vi sto facendo una sviolinata. Beh, insomma, se questa non è una sviolinata. Siete due bastardi nel senso buono che non si può fare a meno di ascoltarvi. Tanto per cominciare. E dunque? E poi... Sì, no, bello, bello, molto bello. Poi? E poi voglio dire solo una cosa, sì. Guarda, gli italiani non ce la fanno più. E vabbè, questo lo sappiamo, con questa cosa. Io vengo da una famiglia di comunisti sfegatati e a me mi dovete credere. Sì. I fascisti mi hanno ammazzato la sorella di mio padre alla quartiere Tiburtina a Roma. Sì. E se dico io mi dovete credere. Però. Nel 44 Zinfollino Caterina hanno dedicato una scuola a Roma, cioè io vi sto però non torniamo troppo indietro se non, prendono questa sinistra di merda la mettono per altri 46 anni 44 anni per quasi 50 anni all'opposizione, questo paese diventa un paese di merda. Cioè, no, mi spieghi. Perché non si può vivere più. Che cosa non devono fare? Se lo vanno appresso alle corna di Berlusconi. Che cazzo ce ne frega a noi di Berlusconi? Se fa il bunga bunga, se fa le orge e le corna che hanno. Che ce ne frega? A noi non ce ne frega niente. E li posso dare pure la terapia per salvare l'Italia. E qual è la terapia, scusi? Li posso dare pure la terapia. Qual è la terapia? Perché i soldi in Italia ce l'hanno due categorie, sono rimaste. I polizi e la malavita. Se non mettono in moto quelle due monete, col cazzo si riprende l'Italia. Ma chiamatemi che vi dico io come si può ma fare. Ma qual è la terapia? Qual è la terapia? La terapia dovrò mettere in moto le quelle due monete. I soldi dei polizi e i soldi della malavita. È solo così, ma voi mi dite allora dobbiamo autorizzare a rubare i polizi alla malavita? No, da domani mattina ti svegli e dici da oggi si cambia musica, se fai un reato quanto ti devo dare? Un anno? 10 anni, l'ergastolo, solo così si può salvare l'Italia, sì. Perché questi sono incapaci, li prendono pure dalla boccone, questi sono bocchinari. Ah, mi denunciate, io ho lasciato nome e cognome, indirizzo di casa, mi denunciate che sono bocchinari. Ma chi dovrebbe denunciare, scusi Savino? No, i bocconiani del cazzo che hanno distrutto l'Italia, le aziende, le corna che hanno. Io fra poco, io non sono quello che mi ammazzo, io ammazzo. No. Informatevi bene. Ma come perché ammazza? Fra poco se Befra viene a casa mia, io prendo a Befra, gli taglio la testa come semerari. Ma perché dovrebbe gli taglio la testa come semerari? Questo stanno sottovalutando. No, ma scusi. No, scusi perché sono agitato. No, e questo sarà capito. Si preoccupano della gente che vanno in piazza. Questi si devono preoccupare di quelli che non vanno in piazza. Questi sono pure stronzi. L'altro giorno due persone di 30, di 40 anni, 50 anni, che in altri tempi se trovavano un portafoglio per terra, lo consegnavano alle forze dell'ordine. Sono andato a rubare, sono stato arrestato. Un attimo, mi faccia sentire Letta, un secondo, che è uscito dal colloquio con Bersani. Un attimo solo, Savino, resti lì. Presidente della Repubblica, le decisioni della riunione della direzione nazionale del Partito Democratico, che oggi pomeriggio a larga maggioranza ha deciso appunto quello che abbiamo illustrato al Presidente, cioè la disponibilità e la volontà del Partito Democratico di concorrere alla nascita di un governo sulla scia delle indicazioni del discorso che il Presidente della Repubblica ieri ha espresso di fronte al Parlamento. E in particolare abbiamo illustrato i due punti che la direzione del Partito Democratico ha considerato quelli essenziali. Innanzitutto la questione chiave è quella dell'emergenza economico-sociale, il problema del lavoro che non c'è, questo lo sappiamo. La disoccupazione giovanile, la questione soprattutto di far cambiare linea all'Unione Europea che fino a oggi su questi temi non ha dato le risposte sufficienti. Unione Europea. E in secondo luogo il grande tema della riforma della politica, con la necessità di dare risposte perché le istituzioni oggi e la politica non è sufficientemente credibile. Queste risposte necessitano scelte che in tempi certi cambino la Costituzione, riducano il numero dei parlamentari, aboliscano le province, creino un Senato delle regioni e diano la possibilità di una nuova legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliersi direttamente i propri parlamentari. Senza riforma della politica non c'è possibilità di via di uscita dalla crisi. Queste sono le indicazioni che abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica. Ci atterremo alle scelte che il Presidente della Repubblica nella giornata di domani compirà. Grazie. Dunque deciderà Napolitano domani, questa è l'unica notizia che esce fuori in realtà da questo discorso di Letta, che ha ripetuto quello che ha deciso la direzione del Partito Democratico e poi ha detto che Napolitano non prenderà una decisione questa sera bensì domani, almeno così sembra. Pubblicità, Savino, ha sentito Letta? Ho sentito, ma non la salvano l'Italia. Non la vuole, la salvano. Vuole ancora sparare? Vuole ancora la sparare o no? La terapia ce l'ho solo io, ve l'ho data per l'Italia, ce n'è pure un'altra per l'Europa. Domani mattina si svegliassero e piantonassero lo IOR, tutte le banche, e mettessero fuori costo le 500 euro e le 200 euro, cornute che non sono altre, e vedete come si risolve l'Europa. Che questo, io ho la quarta elementare, però gli faccio il culo come una capanna. Non c'è dubbio. Scusi Savino, ma lei ha detto che... Quando mi vuoi chiamare Giuseppe, io sono sempre a tua disposizione. Ma questo l'ho capito, ma Savino, scusa, tu mi hai detto che vuoi sparare addirittura. Non vuoi sparare, io non sparo a nessuno. A me se mi vengono a dare ancora fastidio, perché qui io ma sto chi? Lavorando. Chi? Anzi, io ho un'altra due aziende, vedi, ce l'avevo tre. Aspetta un attimo, ho la pubblicità da mandare, resta lì. Si è lodato Gesù Cristo, sempre. La Zanzara. Perde quota l'ipotesi di Renzi, qualche indiscrezione suggerisce che non lo voglia il PDL. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rendo isterico. E chissà che il rinvio a domani della decisione di Napolitano non sia proprio perché a capo della delegazione del Partito Democratico c'era quel Enrico Letta, da tutti indicato come un possibile premier per questo governo, che chiamatelo come volete, ma ci sarà un accordo tra PD e PDL, vedrete che ci saranno ministri del Partito Democratico e del PDL, magari non ministri, come dire, ci saranno ministri più concilianti, no, tra i due, che ne so, certo non ci sarà Brunetta, insomma, no, certo non ci sarà, che ne so, la Gelmini, certo non ci sarà, non ci saranno ministri discussi, ci saranno ministri di partito, ma non quelli più criticabili dall'altra parte. Savino? Giuseppe? Allora, ma io non ho capito, se Befera, che è successo con Befera? Scusa. Niente, perché qui uno lavora, io c'ho due, stavo dicendo, c'avevo tre aziende, una me l'hanno fatto chi, ce n'ho altre due. Io mi voglio mettere a tavolino con lo Stato, dico voi quanto volete da me, ci sediamo a tavolino, vi do due aziende attive, ci sediamo a tavolino, loro quando vanno in 40-50%, io le cedo a loro, io chiedo a loro la metà di quello che loro chiedono a me, e quello che loro mi danno la metà, io li pago pure le tasse. Ma quanti soldi che non sono altri, questi sono dei cornuti. Quanti soldi devi dare? Quanti soldi devi dare ad Equitalia? E io non devo dare una lira, se mai sia dovesse arrivare in mano all'Equitalia, io non sono quello che mi ammazza, ma il contrario. Anzi, se devono augurare che non vada un dottore e mi dice che ho due mesi di vita, se no rimarrò sui libri di storia, peggio di Kennedy. Scusi, e Savino, però io non ho capito una cosa, perché scusa, lei pensa che Equitalia dovrebbe rivolgersi a lei? Scusa, non si lavora, la gente va male. Ho detto il fatto di quei due camionisti, che due operai, 40 anni, 50 anni, che sono stati arrestati. quelli in Africa si trovano un portavoce. Sai che, ma scusa un po', se un camionista per andare e venire da Milano, da Bari qui, da Andria, io sono di Andria, da Bari da Milano ad Andria, ci vogliono, ho chiesto a un camionista, perché io ho un autopark d'autotrain, dove stanno gli autotrainer, e cioè conosco gli autotrainisti. Dico, ma scusa, per andare a Milano e venire qua, se ne vanno dalle 1000 alle 1100. E io ho fatto i conteggi che lo Stato su questo viaggio che fa da Milano a Bari, lo Stato prende dalle 500 alle 600 euro a viaggio. Dico io, e poi il camionista va a casa e non può mettere il piatto sulla tavola. Il camionista fa due viaggi alla settimana, sono otto viaggi al mese, prende dalle 4 alle 5 mila euro al mese da un camionista. E questo è andato a rubare, perché non mi poteva pagare a me neanche il posteggio che paga 150 euro al mese. E questo se prende a viaggio 500 euro. Lei lo sa cosa prende lo Stato sul carburante, no? Sì, allora? E fa il conto, per andare da Bari a Milano e venire ci vogliono dalle 1000 alle 1100 euro di carburante. Vabbè, ho capito, ma perché lei se la sta tirando? Perché dovrebbero venire da voi? Perché Befera dovrebbe venire da lei? Se viene da lei... Perché io non lavoro e non pago le tasse, Befera viene da me. E se viene, se viene di fronte a lei, lei che fa? Non lo so. Lì ho detto, li faccio fare la fine dei Semerari. E che è Semerari? Ma lì sarà da arrestare. Anzi, se mi arresto, faccio pure un altro danno, perché un detenuto costa 300 euro al giorno. Perciò mi danno perlomeno da mangiare. Non ce la faccio più, guarda. Ti giuro, Giuseppe, te lo giuro, io ho tre figli e due nipoti. Ma tu frequenti la 14, no? Non ce la faccio più, questi stanno scherzando, stanno pensando al bunga bunga di Berlusconi, ma la storia del pianeta la sanno. Ma quando che questo è il bunga bunga, le orge, ma la storia dei Kennedy la sanno. Cioè? Che c'è il bunga bunga di quella famiglia, se a quei tempi di Kennedy mettevano le cimici a Kennedy, doveva prendere la sedia elettrica. E voi la sapete meglio di me la storia, perché io ho la quarta elementare, non mi sono mai seduto su un banco di scuola, ho la boccone del marciapiede, io li rompo il culo. A chi? Scuse, a chi? No, per carità, a chi? Avete capito, ai bocconiani, io li rompo il culo ai bocconiani. Ma che c'entrano i bocconiani, tu dici? Perché sono quelli che hanno distrutto l'Italia, le aziende. Trovo un'azienda gestita da... L'Italia è stata fatta da gente, l'Italia è grande perché è stata creata da quelli che non si sono mai seduti su un banco di scuola. E l'hanno distrutto quelle che sono uscite dalla boccone. Sì. Si sedessero con me. Scusi, io non mi sono Savino, mai ma lei ogni tanto... Io gli rompo il culo. Vabbè, questo ho capito, lei vuole rompere il culo a quelli della Bocconi, però io voglio dire una cosa. Perché quelli hanno distrutto, trovatemi un'azienda dello Stato, attive. Dal 48 che ci presentano i bilanci dello Stato falso, poi vengono a noi, vanno i bilanci regolari, no? Vengono a noi e dicono non sono regolati. Ma i vostri, ci presentate i bilanci dello Stato, sempre fasullo, e voi volete i bilanci nostri, che dice che, e poi ci rovino, ci mandano l'Equitalia, ci mandano la finanza, fermo la gente come se si è comprato la macchina, come se si è comprato la barca. Ma se quello, se non si compra la macchina o la barca, mica sta male, quella forse sta pure meglio. Sì. E chi deve costruire la macchina o la barca che sta male? Stronzi! Stronzi, questi sono stronzi. E poi la Camusse dice a Marchion, fa l'automobile in Italia, che deve fare sto cazzo? Che fa le macchine, le mette sul piazzale, se non le vende a chi le ha? Se ne è andato in America. Certo, ha fatto bene. Io sono andato a... Tu sei a favore di Marchionne, sei? No, non sono a favore di Marchionne, a me non me ne frega niente, a me non mi ha dato mai niente, destra e sinistra, non mi ha dato niente, però... Però se la prendo per 20 anni sto cazzo di Berlusconi, che cazzo, ma magari fossero il fango che porta sotto le scarpe Berlusconi. Questi fanno i moralisti, sai come fanno? Quelli che fanno i moralisti sono i puttazzoni. Fanno i moralisti come... quelli della sinistra, dici tu, quelli della sinistra. Quelli moralisti sono come i preti, che predicano certi preti, e fanno i pedofili. Sì, Ale dice quelli della sinistra. Come certi preti, che predicano e fanno i pedofili. Così sono questi. Meno male che adesso sto Papa Francesco sta dando un po' di lucidità alla Chiesa, perché pure lui c'era dei problemi, e non credi che li faranno risolvere, non credi che li faranno dare quelle risposte che deve dare. Dici, vabbè. Quando vuole Giuseppe chiamami. Ma dove stai? Col camion sei? No, no, che camion, no, non guido camion, c'ho un autoparco di autotreni ad Andria. Un autoparco di autotreni? Dove parcheggiano gli autotreni. Ah, un autoparco. E poi c'ho un ristorante a Trani. Allora di che ti lamenta? E che mi lamenti? Perché mi lamenti? Che io lavoro alla banca, a sembra che poi quei cornuti delle banche si chiamano lui quando sta a mangiare, no? Mi svegli, devi venire a coprire il mutuo, devo coprire sto cazzo, che devo coprire? Che devo coprire? Ma reggi con i soldi o no? Reggi con i soldi o no? Reggi abbastanza con i soldi o ce la fai con no, i soldi? No, ma io poi c'ho, sediamoci a tavolino, venissero i bocconiani, io ci sediamo, io gli do due aziende attive, io non ce la faccio, per quello che pago allo Stato, io non ce la faccio. Allora io le voglio cedere a loro, le voglio cedere a loro le due aziende, io voglio la metà di quello che loro chiedono a me. Sti cornuti, ma speriamo che mi denunciano. Davide, vedi, io ti voglio bene, ti voglio bene, anche se qualche volta mi fa arrabbiare, però vi voglio bene a tutti. Ma perché? Ma ce l'hai con tutti, ma è una cosa incredibile. Ma una cosa incredibile, ma che è un paese questo? Ci siamo fatto ridere dalla Merkel e star così. Quei due pezzi di merda, quei due pezzi di merda, non sanno mangiare, non sanno vestire, la Francia si è inventato il profumo perché c'è il divieto di incontro con l'acqua perché non si lavano e voglio parlare dell'Italia, ma di che devono parlare dell'Italia? Le corna che hanno, di che devono parlare dell'Italia? Perché qualche pezzo di merda di politico e qualche collega vostro che è andato all'estero a parlare male dell'Italia, di che vogliamo parlare? Dobbiamo parlare, che dobbiamo parlare? Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Ho capito, però. Scusami. A Trani c'ho il ristorante. Savino, ma sì. se lei incontra Monti per strada, che fa? Monti, ma che gli devo fare? Quello è un povero disgraziato. Beh, io ho un figlio, si è laureato e non c'ho la forza di poterlo aiutare quel figlio. E invece il figlio di Mario Monti, la Forrella, gli danno i soldi, danno le corna che hanno. Ma come le corna? Che io c'è? Vorrei venire a parlare di persone, ma li voglio mettere tutti davanti. Tutti me li voglio mettere davanti. Chi tutti? Tutti. Chiunque, il migliore. E io sono ignorante come una capra. E allora? Sono ignorante. Li voglio vedere cosa sanno fare. Perché questi dicono che devono salvare. Che devono salvare? La terapia è quello che vi ho detto io. E qual è? Io non ho ancora capito sta terapia qual è, però. La terapia devono metterla. Tanto Di Pietro che ha fatto? Che prima i polizi facevano un reato, adesso ne fa due, quell'altro cornuto. Ah, lei dice la terapia è quella di. Perché prima Di Pietro che faceva? Cosa facevano? Allora, prima poliziotto spendeva, adesso i polizi rubano spendono. Fa due reati adesso. Sì. Così è la malavita. Fino adesso sequestro. Ma quelli rubano lo stesso e non spendono. Che deve girare più in Italia? I soldi ce l'hanno quelle due categorie. Cioè, i politici ce l'hanno la malavita. Se non mettono in moto quelle due monete, l'Italia si riprende col cazzo. Scusi un attimo, ma Napolitano, lei ha fiducia in Napolitano o no, caro Savino? Napolitano che dove è una brava persona, eppure lui, vedo, l'hanno messo le cimici pure a lui, poi quando mettono le cimici allora subito diventano delle bestie, quando me le mettono a me è tutto a posto, quando le mettono a loro. Ah, lei dice le intercettazioni, dice lei, ma lei chi vorrebbe perché, presidente del consiglio adesso, caro Savino? Ma non voglio, tanto a me ho detto, non mi ha dato mai niente né destra né sinistra. Ma nessuno le deve dare niente. Che queste prendono sempre loro, poi vogliono un conflitto di interessi, il conflitto di interessi. Io ho visto gente che come entra in politico si crea una società fittizia e dirotta tutti gli appalti tutti i politici hanno i conflitti di interessi, non esiste uno che ha conflitti di interessi. Poi io voglio vedere queste aziende italiane che devono servire lo Stato, quali sono? Non le servirà più nessuno. Perché non pagano? Il più grande truffatore è lo Stato. Ah, su questo non c'è dubbio. Questa è una vergogna, 80, lo dica forte, Savino, lo dica forte. Deve dare 80-90 miliardi agli imprenditori e questi si ammazzano. Ma questi sono pure stronzi, perché se io un giorno decido di ammazzare, prima faccio quello che dico io, poi mi ammazzo. Sono pure stronzi, perché io ho il coraggio di ammazzare, non di ammazzare, ma allora che sono scemo. Mica sono scemo io. Abbiamo la borsa, Savino, resti con noi. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. La zanzara. Cornuti che non sono altri. Questi sono dei cornuti. Il grande Giorgio Napolitano è veramente un grande italiano. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. Giorgio c'è. Almeno viene al ritmo con me, sennò facciamo un casino, eh. E nel PD, giocando agli indiani, hanno tirato le frecce a Bersani. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. C'è troppa gente che non ha capito e pensa solo al suo partito. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. La Bindi sa sempre quello che dice. D'Alema col baffo la benedice. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. Presidente, siamo con te. Vai tu, vai tu, eh. Meno male che Giorgio c'è. Andrea Vantini ha creato per noi Meno male che Giorgio c'è, il nuovo inno del PDL, perché alla fine Berlusconi appare come un grande statista. È paradossale, ma è così. E il PD dilaniato. Ditemi voi se non è il capolavoro di un uomo che sembrava morto un anno e mezzo fa, circa nel novembre 2011. I processi, Rubi, le mignotte, la nipote di Mubarak, eccetera, eccetera. E adesso dà ancora le carte. Dà le carte al tavolo, signori miei. Ed è pronto a mettere i ministri suoi in un governo dopo le elezioni. Vi rendete conto di quello che è accaduto? Del disastro della sinistra italiana totale. Totale. Non sto godendo, non sto godendo. Freccia Bersani, Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. Io voglio abbracciare fortissimo Savino. Caro Savino. Dai, tu senti, posso dire un'altra cosa? Dimmi, dove c'hai il ristorante, ecco, innanzitutto? Dove ce l'hai sto ristorante? A Trani. Ma dove? Dacci l'indirizzo. Lungomare Cristoforo Colombo, Capocolonna si chiama il ristorante. Come si chiama? Siete tutti ospiti miei. Vabbè, non c'è bisogno, non c'è una lira, ti dobbiamo dei soldi, vogliamo pagare noi. Capo, non dovete pagare, siete ospiti miei. Ma se stai rovinato, stai. Sto rovinato, io se mi rovino a me, io rovino gli altri. Non è che. Io voglio dire solo una cosa, Giuseppe. Ma come si chiama? Dai bene l'indirizzo di questo ristorante. Ma male che ci vuole bene, Trani, scrivi, Trani, Lungomare Cristoforo Colombo. Sì. Capocolonna si chiama il ristorante. Capocolonna, che si mangia? Poi chiede a Striscia la Notizia, che è venuto più da una volta. E com'è che sono venuti là? Che hai fatto con Striscia la Notizia? No, è venuto, vengono a mangiare quel, ma allora, ma di che ti lamenti? C'hai qualche impiccio così? Io non ho capito, tu ti lamenti? Non c'è nessun impiccio. Vedi, io voglio dire una cosa. Io voglio che si mettano tutti a tavolino. Destra, sinistra, centro, magistrati. Ma i magistrati che c'entrano? Magistrati industriali, che quello hanno rovinato un po' l'Italia. Si mettono tutti a tavolo, sì, e risolvono il problema degli italiani. Sì. Se no sono cazzi loro, perché vedi, stavolta se mettono in mano di nuovo in mano al terrorismo l'Italia, sì, stavolta non è come l'altra volta. E che fanno? Perché l'altra volta gli italiani stavano bene a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Bene, e sapete cosa succedeva nelle carceri? E adesso italiane? Cosa succede invece? Sapete cosa succedeva allora? Vabbè, che dentro le carceri italiane destra e sinistra facevano le funzioni con la delinquenza comune. Vabbè, ma adesso che succede? La storia sa adesso è peggio, sai perché? Perché stavolta gli italiani non hanno niente, tra le banche, lo Stato, la legge la Torrognone, c'hanno il veleno sui denti, e questo come morda, c'hanno il veleno che non vi potete, vabbè, immaginare. Ma io non ho capito una peggiori, cosa, scusi. Poi vedi, stanno i peggiori, sai chi sono? Professor Savino? Quelli che hanno fame, che se io davanti a me c'ho Totorrino e uno che c'ha fame, io non ho paura di Totorrino, ho paura di quello professore? Che c'ha fame. Vabbè, professor Savino, ti abbraccio fortissimo. Ti abbraccio. Chiamami quando vuoi e venite al ristorante. Ciao Savino, un abbraccio. Ti abbraccio, chiamami. Non ciao. È Nicola Savino, è Savino dalla provincia di Bari, non è Nicola Savino. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Oh, a Alessandro, provincia di Viterbo, secondo Mentana è Berlusconi che non ha voluto Renzi, eh? È Berlusconi, abbiamo notizie, dice riservate, abbiamo verificato. È Berlusconi che alla fine non ha voluto Renzi. Alessandro, provincia di Viterbo. No, da Orvieto. Orvieto, vabbè, Orvieto, sì. Non fa niente, Cruciani, non ti preoccupare. Sì. Saluto te. Vai. Poi io sono sempre dell'opinione che chi non piace la trasmissione cambia perché c'è il telecomando. Come è, sempre, la è sempre così. La, il telecomando con la radio, insomma, sì, ma, può essere, ma è. Sì, vabbè, è raro, sì, diciamo, così. No? Il signore di prima molto pittoresco, Savino, però in fin dei conti ha detto la verità. Insomma, la verità, adesso su questo si può discutere. Dunque, la verità, gente in dunque crisi. Senti, io dicevo solo che io ero un elettore del centrodestra e ho votato Grillo, perché allora mi è stato un voto di protesta. E adesso lo rivoterebbe? No, però la politica deve capire che non si può andare avanti in questa e che maniera. Deve fare? Non lo so. Ma come non lo sa? Chieda una cosa. Non sono io che devo saperlo. Non sono io che devo saperlo. Vabbè, ma poi le vorrà chiedere qualcosa? Il finanziamento pubblico dei partiti, per esempio. Secondo me, qualsiasi governo nasce da domani in poi, se non mi eliminano il finanziamento pubblico dei partiti, sarà stato tutto totalmente inutile. La zanzara è quello di Alba. Oh, come stai? Da Dio, sono in macchina, sto andando a Roma. Stai facendo qualche massage? No, non sto nessun massage, sto prendendo un passage. Sto da andando chi? A Roma, mi sono anche guidata un bel 250 km, adesso ho ceduto il volante per stare con voi al. Bene, grazie. Come state? Crociani, come sta? È migliorato un po'? Da che punto di vista? Uguale. Dal punto di vista della galanteria? Da tutti i punti di vista. Da tutti i punti di vista sono peggiorato. Impossibile, Crociani, direi impossibile. Crociani, innanzitutto ti suggerisco sempre, impossibile, sempre questa cosa. Senti, raccontami le tragedie della sinistra che ancora non sono finite. Beh, le tragedie. Perché ti riassuma le quattro tragedie della sinistra. Innanzitutto tu che hai votato, mi sembra di capire che hai votato, se non ricordo male, votasti per Sel, no? Giusto? Allora, io votai sbagliando sì. per Sel. Non sbagliando, che Vendola io lo sostengo. Però ti sei pentita. Mi sono pentita perché purtroppo è stato un voto che in quel caso non è servito a niente. C'è. Poi, non essendo paga del sì. fatto di aver sostenuto quello che sosterrei ancora, perché Vendola mi corrisponde, ho avuto la splendida idea di sì. votare Bersani, che uomo di tutto rispetto, che però purtroppo ha avuto insieme ma al PD. Tu stai dicendo Vendola alle primarie e Bersani alle elezioni? Certo. Ho capito, Bersani alle elezioni. Hai votato? Tu parlavi delle ultime? Beh, sono quali, sì. quelle dei 12 anni fa. Sempre PD ho votato, cosa sempre vuoi che PD, voti? Sempre. Di lì non mi scollo, ma devo dire adesso ma come non sono sei? Veramente più a chiedere sei, i resti. Ah beh certo, sei distrutta. Vuoi che ti dica che cosa è riuscito a fare il PD, tutti i suoi componenti? Fammi la tua analisi. La mia analisi sono quattro sì. disastri di dimensioni stratosferiche, cioè sono riusciti sì. a ottenere quattro cose. Rilanciare totalmente Berlusconi, questo uno. Dare a Grillo la possibilità di gridare all'inciuccio, al golpe, eccetera, sì. rafforzandolo ulteriormente con come questo, tra virgolette, poi inciuccio verrà, sì. e così daranno poi la forza, se dovessero riproporsi le elezioni, di prendersi sì. il 50% dei voti. Sì. Proprio smontare definitivamente il PD, cioè proprio fare a pezzi il PD. Quattro. E quattro, se non bastasse, rompere definitivamente l'alleanza con Vendola. Cioè questo è stato il capolavoro che è riuscito a fare. Lo sai che devo dirti la verità, Parenzo? Se una persona oggi fosse andata alla direzione del Partito Democratico, se Alba Parietti fosse andata alla direzione del Partito Democratico e avesse detto queste cose, avrebbe fatto una gran figura. Perché in realtà nessuno ha detto nulla, non è che qualcuno si è alzato a dire abbiamo sbagliato, dobbiamo per forza fare il governo col PDL, ci rimettiamo alla volontà di Re Giorgio. Nessuno ha avuto il coraggio di dire una allora verità così. Allora mi stai dando dell'intelligente, Crociani, senza. Beh, intelligente, non esageriamo. Adesso, insomma, hai diciamo fatto, che me la cavicchio. Hai fatto un ragionamento di una certa di un certo spessore. Però poi diciamo, no, l'intelligenza è un'altra cosa, l'intelligenza. Lo so, ma io dimmi quanto sei distrutta per questa sinistra, per questo PD allo sfascello. Ma tu puoi immaginare, io è l'unica cosa che posso votare perché geneticamente sarò sempre di sinistra, quindi io francamente sono una voto impazzito senza scheda. Ma non sei atterrita all'idea di un governo con Berlusconi adesso? Io no, non sono atterrita nel governo di Berlusconi perché oramai siamo pronti come dire, ad a affrontare tutto. Qualsiasi, cioè, voglio dire, il disastro è stato fatto, non c'è più niente da fare. Certo. Abbiamo sbagliato anche noi elettori perché purtroppo io personalmente, sì, diciamo, non apprezzando la politica di Renzi o diciamo. Dovevi votare Renzi alle primarie. Dovevo votare Renzi perché questo avrebbe risolto tutto, avrebbe fatto sì oh. che. E di fatti Renzi, come io supponevo, Berlusconi adesso non lo sostiene più perché è il suo clone giovane e di sinistra che però porta voti anche a destra, quindi perché votarlo? Oh, ma è giusto, mi sono pentita di aver votato fatto. Di aver votato Vendola alle primarie, se votavamo Renzi eravamo al governo in carrozza. Io non è che mi pento di non aver votato Sel, perché io no, francamente Sel, sono vendoliana, lo sai, e rimango, essendo figlio di un ex partigiano, cioè per me la sinistra è quella roba lì, sì, non è un'altra roba, però sì, purtroppo bisogna fare dei ragionamenti strategici, non si può ragionare. Ma nel frattempo ti sei fidanzata? No, nel frattempo però sto facendo la gruppi di mestiere, sì, la gruppi, l'autista, la motivatrice di Cristiano De André, per cui adesso sto oh, andando. Oh Cristiano, a Roma. Dov'è? Accanto a te per caso? È qui con me, lo vuoi? Dagli un abbraccio fortissimo, caro Cristiano. Vorrebbero parlare con te, Cristiano, perché stiamo andando al concerto che farà dopodomani all'Auditorium a Roma e quindi siete invitati voi due. Ma noi siamo. Mi dovete pagare il biglietto. No, Parenzo se lo pagherà. Siamo. Io sono a Milano, non posso. Sono a Perugia. Io sono a Perugia. Io vengo volentieri. Se sono a Roma vengo molto volentieri. Aspetta, sei grande. Cristiano, Cristiano, Cristiano, Cristiano, Cristiano, Cristiano, come stai? Ciao, benissimo, grazie. Allora, questa sinistra non distrutta. Volevo dire, annunciare che lei comunque ha votato Ignazio La Russa. Ma io non ho mai votato Ignazio La Russa. Ma assolutamente mai. Io so i segreti. Ma che segreti, Cristiano? Ma che dici? Io non ho mai votato Ignazio La Russa, per carità, è una brava è una persona. Comunista, cioè. Ah, lei dice Alba Parietti. Alba. No, certo, ha votato La Russa, sicuro ha votato La Russa. No, lei La Russa. Ma tu che hai votato invece, Cristiano? Che hai votato invece? Io ho votato, non posso dirlo perché. Ma come non puoi dirlo? Che sei sto il Papa? Sto aspettando che delle motivazioni sue, quindi sono un attimo di pausa. Ma come un attimo di pausa? Ma che hai votato? Non è mica il mistero di Fatima. No, non vorrei esagerare, dire delle cose che poi magari non sono così un po' spero. Sconveniente. Io voglio dirti questo, Cristiano. Voglio dirti non questo. Preferisco stare fuori. Stane fuori dalla politica, non tu vuoi, esatto, non vuoi dire per chi voti, per Grillo, tu hai votato per Grillo, dimmi la verità. Ma sì, ecco, peccato. Hai votato per Grillo, dilla, certo, dilla tutta, certo, dai. Mi sento anarchico, non mi interessa il potere, quindi lui certo. È più vicino. Dunque a te del Partito Democratico che va in frantumi non te ne frega un cazzo, diciamola tutta. No, non mi interessa il potere, non mi interessa... Ti interessa quello che hanno fatto, secondo me hanno sbagliato molte cose. Hanno... Chi volevi Presidente della Repubblica? Il rosso, sempre meno rosso per colpa loro, voglio dire. Chi volevi Presidente della Repubblica? Ma io direi che aveva proposto Grillo non era male. Rodotà, il signor Rodotà. No, Rodotà, anche Rodotà. Che si chiama... Rodotà, sì, Rodotà, Rodotà. Vabbè. Non mi viene adesso. Non ti viene, no, per carità. Traffico, ripassami Alba dopo il traffico, grazie. 800 24 00 24. Cosa dovevi chiedere a Cristiano Parenzo? No, voglio dire al grande Cristiano De André che la più bella canzone che lui ha scritto, ecco, che io la solita slinguatina, su, la solita. Tutte le sere è Lady Barcollando, che è meravigliosa. Anzi, chiederei alla regia di mettere subito Lady Barcollando, che è una canzone di una Lady poesia. Sì, a Parenzo piace Lady Barcollando. Beh, ti ha voluto fare Silvietto. Ti ha voluto fare la solita slinguatina. Ma hai visto che Berlusconi rimane in sella lì a dettare le sue, no? Lì... Questa è una cosa abbastanza imbarazzante. Lo so. Vabbè, comunque. Questa, siamo noi, tutta parte che non vuole cedere, non ci fronte neanche all'evidenza. Ma dov'è? Ma mica stai guidando? No, stai guidando, no? Sarebbe grave. No. Sei appoggiato dietro. Un fido autista. Ti sei fatto una birretta, dai, ti sei fatto una birrettina. È un matematico. Ti sei fatto una birrettina, sto vedendo, hai la voce un po' impastata, una birrettina. Non ancora, perché non ancora. Non ci perdiamo mai quando andiamo avanti dal buio. Vabbè. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Ascolti bene, a casa ci finiamo noi, perché lì comunque qualcuno ci dovrà essere, ha capito? Mario, sai qual è la questione? No, io ero giovane e vedo le stesse facce di 20 anni fa. E allora le cambi. Vado a votare le cambi con Minca Cappone. Paolo, Paolo, questo, sì, questo ragazzo un attimo, ha votato per aspetta Grillo. Aspetta un attimo. Aspetta beh, un attimo, quinta colonna quotidiano, il titolo è tutto... È tutto una... Beh, è significativo. Loro case da sogno, noi strozzati dal mutuo. Cosa spettacolare, signor Del Debbio che conduce. Alba Parietti è con noi proprio sulla, sul declinare della trasmissione. Io voglio capire se ti sei fidanzato o no, cara Alba. Ma tu hai detto, non posso fare altro che la, la groupie in questo momento. Ma che cioè, vuol dire? Ma la groupie di chi? Questo contratto. Sto facendo la groupie fissa, cioè di Cristiano, quindi non posso occuparmi di altro. Ma quando, è che l'ultima volta che hai fatto sesso? Quando è stato? Oh, robe da proprio, non so, non se ne hanno, notizie. Ma no, ma non è vero, dai. Non Lucia, è vero. Io aspetto te per ricominciare a fare sesso. Ma non è vero, lo so che non è vero. Aspetto solo te e aspetto il momento buono di salzarti addosso. Quindi se tu vieni dopo domani all'auditorium dove Cristiano presenta così come in guerra, ti aspettiamo con te davanti a me, e farò sesso con te davanti a Cristiano, sei contento? No, no, beh, può essere, ecco, a queste condizioni sì, cioè se c'è una cosa un allora, po' più allargata sì. Così viene, gli piace, cioè, gli piace, però vuole la tua collaborazione perché sennò ha paura. Sì, no, non è per questo, scusa, non è perché ho paura. No, ma adesso a parte tutto vi faccio tenere due biglietti perché so che siete anche Tirchio. No, ma siamo ma Tirchio sarà Parenzo, non io. Parenzo, senti, ti lascio due biglietti all'ingresso. No, ma siamo a Perugia purtroppo, siamo a Perugia. Ah, ma che sfiga. Siamo a Perugia, dobbiamo rimandare un'altra volta questa seduta di sesso comune. Che è veramente un dolore. Senti, però investite 2 lire, compratevi il che cosa ti devo ringrazio comprare? Ringrazio moltissimo Cristiano per Lady Barcollando, però dov'è sta Lady Barcollando? L'abbiamo messa? Non l'abbiamo trovata. Però no, perché non investite 2 lire, comprate l'ultimo e mettete crediti? Vabbè, adesso stai a fare la marchetta, a Cristiano De André, mica c'ha bisogno. Beh, chiaro, se faccio la group di professione, ti ho detto, allora forse non ci siamo capiti. Vabbè, quando è che facciamo sesso? Non ho capito. Allora, facciamo sesso, se tu vieni al concerto facciamo sesso al concerto, ma se non viene purtroppo niente, dobbiamo aspettare un altro concerto. Vabbè, comunque chi volevi presidente della Repubblica, Alba? Io chi volevo presidente della Repubblica, Rodotà. Oddio, costo Rodotà. Vabbè, scusa, con tutto l'affetto e rispetto per Napolitano, cioè, voglio dire, mi è sembrato, oppure Dario Fo, perché no? Mi suggerisce Dario Cristiano. Suggerisce Dario Fo. Io suggerivo Rodotà, perché tra l'altro lo conosco, è una persona per benissimo, un intellettuale, fuori dai giochi politici. Ma che fuori dai giochi vero. Politici? Questo presidente, che è un grande presidente, un grande presidente, non avrà il ruolo del presidente a cui siamo abituati, perché diventiamo una Repubblica monarchica come bene, la Francia, meglio così, meglio qualcuno che comanda. Obama, abbiamo però Obama. Meglio qualcuno che comanda. Meglio qualcuno che comanda, si capisce dov'è il centro del potere, meglio così, bene, meglio così. Bene, io l'importante è che non affidino il governo, la formazione del governo a chi? A voi. No, a noi è possibile. Ti abbraccio, no. A presto. Un abbraccio ciao, grandissimo. Ciao. Un abbraccio, ciao. Zanzare, il treve di montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola d'umanità, tempista e cittadina, non dormire. Luciano, provincia di Trento, buonasera. Ehi, ciao, come stai? Bene. Hai fatto un po' il Bonolis della situazione, eh? Bonolis non mi pare proprio. Sì. Ah sì, dai, con quello lì. Fantastico. Con chi? Comunque va bene anche perché. Ah, con Savino, mitico Savino. Sì, Savino. Savino. Sì, bella, dai, questa storia. Vabbè, allora? E Letta cosa ha detto invece? La persona di... No, Letta non ha detto nulla, tranne che Napolitano decide domani, solo questo ha detto. Ha detto che decide domani, però fantastico. Napolitain. Allora? Non mi toccate Napolitano. Io non tocco niente, guarda, io tocco tutto. Vabbè, ma che vuoi dire? Scusa, Luciano, sei intervenuto di qualcosa, no? Sì, così è perché visto che abbiamo scherzato la finestra, adesso scherziamo ancora un po'. No, l'unica cosa che mi volevo dire è che questa notte non riuscendo a dormire e mi sono immaginato tutti questi signori che sono a Roma uguali all'HIV. Tu sai cos'è l'HIV, no? Beh sì, più o meno lo so. Ecco, tu sai chi sarebbe uguale all'HIV? Chi sarebbe uguale perché all'HIV? Tu sai perché non si riesce bene o male a sconfiggere l'HIV? Perché tu ogni volta che trovi una cura o qualcosa, lui tac, muta, cambia. E allora? Capito? E allora questi sono uguali. ha trovato un po' di milioni di italiani che ne avevano i coglioni pieni, perché ne abbiamo veramente i coglioni pieni, avevano veramente la possibilità, non dico di cambiare, ma di far finta di cambiare, no, tac, sono mutati. Hai capito? Berlusconi non è Berlusconi, Berlusconi è l'HIV, mi sono spiegato? Beh, un po' complicato, magari ne parliamo domani. Intanto volevo ricordare a tutti, anche a Parenzo, che oggi Grillo, in un'intervista a un giornale molto popolare, che non è proprio una televisione, no, una televisione di queste d'élite inglesi dove di solito va, ha detto che è meglio che la Germania ci invada, e ha detto anche che noi faremo bancarotta. Intanto io mi sono toccato in vari posti e ho toccato ferro dopo queste frasi, ma non è un po' una frase da grande italiano, signor Grillo. A domani 18:30, la Zanzara vive e lotta ancora insieme a voi. Complimenti per la trasmissione, e il giorno che finisce questa trasmissione io posso pure morire, perché questa è la più grande trasmissione di tutti i tempi, e non vi sto facendo una sviolinata, siete due bastardi nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltarvi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Luciano, io aspetto te per ricominciare a fare sesso. Radio 24. La passione si sente.